E allora, come state? Buonasera a tutti. Io sono Mattia, questa è Cura Radio. Sono da poco passate le 19. Oggi è il 1º maggio. Un augurio alle compagne e ai compagni dai campi e dalle officine. Vi arrivi attraverso internet in questa giornata che speriamo sia stata di lotte e di musica, come deve essere il 1º maggio, naturalmente. A distanza di sicurezza, con le dovute precauzioni e con le mascherine. Ciao Francesca! Ciao Mattia, buon 1º maggio anche a te, buon 1º maggio a tutte e tutti, chi ci sta ascoltando. Che bella emozione, dopo il 25 di aprile facciamo anche il 1º maggio assieme con Radio Cura, insomma ci siamo nei momenti importanti e come dicevi te, sì appunto le precauzioni, le mascherine, ma che si fa con queste mascherine? Dobbiamo mettercele tutti i giorni, dobbiamo uscire con le mascherine, farci la doccia con le mascherine, cantare con le mascherine. Che si fa Mattia con queste mascherine? Sì, siamo un po' il Trentino come Wuhan, il nostro presidente della provincia leghista ha pensato di fare il primo della classe e da oggi tutti, sempre, ovunque con le mascherine. Naturalmente il Trentino non è Wuhan in Cina, è pieno di boschi, di sentieri, di montagne e certo forse con un po' di prudenza si potrebbe anche evitare misure di questo tipo, ma chi lo sa, forse hanno ragione loro, forse bisogna evitare che il rilascio delle norme di quarantena che abbiamo vissuto fino ad ora porti a un nuovo picco della diffusione del virus. E però, mascherine per tutti e sempre, Francesca, tu ce l'hai? Io ho quasi appena possibile mi sono procurato una mascherina di quelle lavabili, perché non ne potevo più dell'usagetta, era una cosa che proprio non faceva parte delle mie corde, quindi ho una bellissima mascherina di stoffa. E, però, insomma, appunto, io abito da Caldonazzo, trasmetto dalla mia casa qua di Caldonazzo e sinceramente, insomma, adesso che ci si può muovere un pochino di più. Ovviamente quando vado in giro per i boschi, insomma, per i posti dove posso arrivare, la mascherina ce l'ho dietro, ma non me la metto. Anche se pare che ci sia gente che si sta allenando a correre con la mascherina, andare in montagna con la mascherina. Poi, vabbè, noi ci scherziamo sopra, chiaramente, insomma, ci sono posizioni anche, insomma, più serie da questo punto di vista. C'è chi effettivamente nelle città, anche a Trento, trova un senso di sicurezza con la diffusione della mascherina. Probabilmente, come sempre, la verità starà nel mezzo, cioè nel santo buon senso che speriamo che con Radio Cura, speriamo di alimentare con Radio Cura, perché forse è la cura migliore, no? Riuscire a fare le cose con il vecchio buon senso. Il buon senso, tanto buon senso anche oggi che è il 1º maggio e c'era parecchia gente in giro, devo dire la verità. C'era anche musica, tante persone in giro, quando dalle finestre magari qualcuno cantava, poi sentirete, abbiamo registrato qualche cosa per strada, perché comunque il 1º maggio bisogna in qualche modo celebrarlo ed è quello che faremo noi questa sera o proveremo a fare con i nostri ospiti, Francesca. Sì, oggi hai preparato soprattutto te una puntata meravigliosa di musica, di riflessioni sulla musica, di storia della musica, l'importanza dei canti popolari del 1º maggio. Quindi sarà una puntata allegra, divertente, ma anche profonda, come cerchiamo di fare ogni volta. E tra l'altro, a proposito di 1º maggio, dobbiamo ricordarci che oggi, dopo, beh, per la prima volta nella storia, i concertoni non ci sono stati, la piazza di Roma, San Giovanni in Laterano, è rimasta vuota. Non ci siamo riusciti però a evitare che, scusate, però, che anche quest'anno Ambra Angiolini, anche se da lontano, conducesse il concerto. No, figuriamoci, sto scherzando. Ciao Ambra. Però appunto il 1º maggio dal vivo dalle 20 alle 24 verrà fatto in questa maniera, insomma, un po' particolare, quindi avremo Vasco Rossi, la Nannini, Zucchero, ma anche insomma persone un po' più giovani, Stato Sociale, il meraviglioso Niccolò Fabi, eccetera, che trasmetteranno in una maniera un po' particolare, quindi alcuni dal Teatro delle Vittorie a Roma e altri in live nell'auditorio Auditorium Parco della Musica e altri insomma da casa loro. E anche se anche noi in Trentino abbiamo avuto la nostra festa del 1º maggio musicale in versione quarantena a Brentonico. Mattia, io me ne sono sentito un po', te l'hai sentito? No, no, non ci sono riuscito. Com'era? Ma guarda, io ho sentito alcuni sprazzi e devo fare assolutamente i complimenti alle ragazze e ai ragazzi che hanno organizzato questa iniziativa, perché l'ho trovato bellissimo. C'erano tanti gruppi musicali, ma anche tanti interventi storici. C'erano i Tersite Rossi che leggevano, c'era il nostro amico Tommaso Baldo che faceva una lezione di storia. Quindi è stato il pezzo, insomma, che anch'io sono riuscita a seguire, è stato veramente bello. Insomma, quindi anche noi ci siamo dati da fare qua in Trentino per cercare di costruire il nostro concertone del 1º maggio. Sì, tra l'altro concertone che non può fare a meno, come dire, di ricordare in qualche modo come è nata questa celebrazione. Ora si festeggia, negli ultimi anni si è festeggiato, ma dobbiamo ricordarlo, il 1º maggio è soprattutto un momento di lotta. Il 1º maggio nasce come celebrazione internazionale, con l'internazionale, la seconda internazionale nel 1889, ma c'erano già state tantissime lotte in precedenza, in particolare per l'ottenimento delle 8 ore lavorative, soprattutto negli Stati Uniti, e poi dopo la seconda internazionale aveva reso il 1º maggio festa internazionale, dei lavoratori. Il 1º maggio si canta, abbiamo parlato del concertone, quindi cercheremo anche di esplorare un po' la relazione tra 1º maggio e musica. Si è sempre cantato, c'è sempre stata la canzone politica, la canzone sociale di mezzo nelle celebrazioni del 1º maggio. Cercheremo di capirlo con i nostri ospiti, che tra poco vi presenteremo, perché sono ospiti che siamo molto felici di avere con noi. Però prima, Francesca, per entrare un po' nell'atmosfera di questo 1º maggio di quarantena, io vi farei sentire un piccolo audio che ho registrato con il cellulare proprio a 50 metri da qui. C'erano dei ragazzi che hanno aperto, la loro finestra, hanno messo fuori degli amplificatori e hanno cominciato a suonare una piccola, piccolissima, diciamolo, folla si è riunita per ascoltare. Allora dai, un po' di ambiente primomaggesco, va bene? Vado? Bye. Montagne, montagne, Ecco, suoni da cortile, Francesca, si sentiva proprio il rimbombo da cortile. Ma che meraviglia, tra l'altro non sembravano proprio suoni del Trentino, perché sembrava di No. essere proprio in pieno sud Italia, in Salento. Che meraviglia, bellissimo, veramente. Un momento di calore che insomma hai fatto bene a condividere con noi. E tra l'altro mi hai fatto anche venire in mente quando all'inizio di questa quarantena, no, si cantava dai balconi, no? Si cercava questa convivialità anche dalle proprie finestre per sopportare il momento duro che si sta passando. E tra l'altro mi piace ricordare a proposito di questo che poco fa a Genova, ma anche in altre città italiane, proprio dai balconi si tiene un'altra manifestazione fatta più in maniera un po' sudamericana, quasi cacerolazo, quindi con pentole, musica, canzoni e cori. Dai balconi si festeggia, si ricorda anche il 1º maggio femminista. Questa qua è un'iniziativa infatti promossa da non una di meno. E certo, tra l'altro noi ieri sera abbiamo parlato di donne, no? Della questione di genere proprio nell'epidemia. Ma tornando ai balconi, tornando alla bella ciao che abbiamo cantato il 25 aprile tutti insieme, beh, io andrei verso così la presentazione, l'introduzione dei nostri tanti ospiti di questa sera. Parlando di bella ciao, naturalmente così vi presento prima di tutti un graditissimo ospite che di Bella Ciao ne sa a pacchi, come dicono i giovani. Si tratta di Cesare Bermani. Ciao Cesare. Ciao, mi Ce sente? ti sento bene. Allora, Bene. Cesare, io ti presento anche se in realtà poi non c'è bisogno di grandi presentazioni. Tu sei uno dei fondatori dell'Istituto Ernesto De Martino di Sesto Fiorentino per la conoscenza critica del mondo popolare operaio. Sei stato tra i primi in Italia a praticare il metodo storiografico con l'utilizzo delle fonti orali, ti sei occupato di storia della Resistenza e naturalmente, ed è per questo anche che sei qui con noi, ti sei occupato di canzone sociale, sei stato uno degli animatori del nuovo canzoniere italiano con tantissimi intellettuali, musicisti, che negli anni 60 ha riportato all'attenzione pubblica il valore della canzone popolare sociale. E hai appena pubblicato un libro che si intitola, per Interlinea, che si intitola Bella Ciao, storia e fortuna di una canzone, dalla resistenza italiana all'universalità delle resistenze. Poi presento gli altri ospiti, con noi c'è anche Antonio Fanelli, che è un antropologo. Tu, Antonio, beh, prima di tutto, ciao Antonio. Ciao Mattia, ciao. Ciao, tu fai parte del comitato scientifico dell'Istituto Ernesto De Martino, lavori con l'Università di Pisa proprio sulla ricerca demo-etno-antropologica, ti occupi e ti sei occupato di canzone sociale e politica, hai scritto nel 2017, tra le tante cose che hai scritto, un libro che si intitola Controcanto, le culture della protesta dal canto sociale al rap. Poi abbiamo con noi Michele Tos, che è una conoscenza trentina. Ciao Michele. Ciao, buon 1º maggio a tutti e a tutte. Buon 1º maggio anche a te. Tu sei uno storico del Museo Storico di Trento. Anche tu ti sei interessato alla canzone sociale, tra l'altro in Francia e in Italia, ma anche in Trentino, tra 8 e 900, nel ventennio fascista. Poi ci racconterai alcune cose che hai scoperto così negli archivi del Trentino per quanto riguarda la canzone sociale e politica. E poi con noi c'è Davide, Davide Caceffo. Ciao Davide. Ciao, ciao a tutti. Davide è insegnante, musicista e cofondatore della Rakatum Band, che è un gruppo musicale che raccoglie soprattutto ragazzi senza fissa dimora. La Rakatum Band, devo dirlo, è una presenza fissa e amata a Trento, soprattutto perché sono presenti con la loro musica. Come? Grazie, grazie, troppo gentile. Sì, no, perché siete presenti ad ogni iniziativa che parli così di esclusi, di esclusione, portate la vostra musica, la vostra testimonianza e con te questa sera faremo ascoltare anche una canzone che parla di lavoro della Rakatum Band. Io a questo punto spero di non aver dimenticato nessuno, Francesca, ci sono tutti, sì, direi, no? Ci sono tutti, ci sono tutti. La band è al completo. La band è al completo. Allora, Se permetti, Francesca, io comincerei con Cesare, così noi abbiamo ricordato un po' così per grandi linee le origini del primo maggio. Cesare, ti andrebbe così di darci qualche informazione in più su questa celebrazione che affonda, come lo abbiamo detto, nell'Ottocento? Sì, quello che posso dire è che dopo la guerra civile in America, 1861-65, sindacalisti e socialisti negli Stati Uniti cominciano a rivendicare le 3-8, cioè 8 ore di lavoro, 8 di riposo, 8 per lo svago e l'istruzione. E una delle prime manifestazioni era a luogo il 1º maggio del 1867 a Chicago, che stava diventando un centro importante industriale. Nel 1886 avviene una manifestazione operaia per rivendicare appunto le 8 ore. E durante questa manifestazione scoppia una bomba. Non si sa bene, non si è mai saputo bene chi l'abbia messa, chi l'abbia fatta scoppiare, ognuno può pensare quello che vuole. Resta il fatto che vengono incriminati per questa bomba scoppiata che ammazza un poliziotto, 7 lavoratori. Quattro di questi lavoratori un anno dopo verranno impiccati. Un quinto non è stato impiccato perché il giorno prima si è messo in bocca un candelotto di dinamite e si è suicidato. Mamma Gli mia. altri due vengono condannati all'ergastolo. E in realtà quello che salta poi fuori, e 5 anni dopo verrà ammesso da tutti, è che questi non c'entravano niente, erano innocenti, e per cui i due ancora viventi vengono scarcerati e gli altri vengono, come dire, possiamo dire riabilitati, non mi sembra che sia la parola giusta perché voglio dire erano innocenti ed erano stati impiccati. E Sì. quindi questo è un po' la fondazione, i 5 martiri di Chicago è diciamo, il punto di partenza del 1º maggio ed è quello che si ricorda quando si parla di 1º maggio. Però resta il fatto che un po' in tutto il mondo il 1º maggio si è poi legato ad altre cose, ad esempio qui da noi, alla famosa Betulla, che veniva fin dal Medioevo, ricordata come momento di ripresa della vegetazione, e condannata a morte dai preti, i quali rabbiosamente cercavano di impedire qualunque manifestazione di questo genere in quanto pagana, eccetera. Cioè, direi che Betulla e Streghe sono i due bersagli, per esempio da noi qui in Piemonte e proprio nella zona dove abito io, di San Carlo Borromeo, che lo hanno fatto santo, credo, per il numero di donne che è riuscito ad ammazzare, insomma. Eh sì. Questo è la vicenda. E quindi in parte si lega da noi, e dall'altra parte con altri aspetti del folklore similari, no? Molte volte. E da noi si lega con la Betulla non solo, ma anche con altre tradizioni. Per esempio, una tradizione tipica era quella di Gesù Socialista. Io ne ho uno qui non molto lontano da me, una cresta socialista che mi hanno mandato un giorno per regalo, che ha sottoscritto la natura, aspetta, andrei a leggerlo ma non te... voglio fare più tempo, e comunque contro la proprietà privata. La proprietà privata insomma è un furto, dice Cesare, di Gesù. Cesare, questa cosa del Cristo socialista mi mancava, devo dire la verità, però è veramente molto bella, francamente ci questa in... Vuoi mica lasciarlo a loro che lo hanno ammazzato, dicevano i socialisti. E come dargli torto. Tra l'altro, Cesare, volevo dire, tu ci hai fatto un po' così, ci hai raccontato un po', no, del fatto del perché il primo maggio non è solo o non nasce come una festa, ma anzi nasce come il ricordo di lotte molto importanti che hanno portato alla morte di tanti lavoratori e tra l'altro di tante lavoratrici, ricordiamolo. Ma noi avevamo promesso ai nostri ascoltatori, alle persone che ci seguono, della musica, e allora tu mi hai proposto di far sentire un brano. Se sei d'accordo, io lo farei partire e poi ci racconti qualcosa di questo, va bene? Sì. Purtroppo non si sente. Si sente qualcosa? No, non si sente nulla, stranamente. Ecco qua. Eccoci qua, viene omaggio. Sì. Questo è l'inno del primo maggio di Pietro Gori, che Pietro Gori scrisse nel 1892 e che fu molto popolare. Io ne ho registrate diverse versioni ancora negli anni 60, anni in cui registravo con particolare intensità, e devo dire non solo su quest'area, perché quest'area di solito diceva Roberto Leidi, padanizzata, cioè prendeva un andamento padano, insomma, oppure veniva cantata su aree come questa. Vieni omaggio, t'aspettan le genti, ti salutano i liberi cuori, dolce Pasqua dei lavoratori, vieni a splendere, eccetera. No, c'erano varie aree, però tutte di questo tipo. E questa è una delle canzoni cantate durante il primo maggio. L'altra canzone era la canzone della Lega, che aveva una serie di strofe che tra l'altro rimandano anche proprio alla polemica di Prampolini contro la Chiesa, contro il socialismo evangelico di Prampolini, no? E infatti di solito la canzone dice: evviva il primo maggio, e chi che l'ha inventato è stato Enrico Ferri, il nostro deputato. Oli oli olà, e la Lega la crescerà, e noi altri socialisti vogliamo la libertà. E poi continuava: la Chiesa è una bottega, I preti sono mercanti e vendono la Madonna ai prezzi dei croccanti, aoliola, eccetera, no? Quindi c'è questo legame con una forte polemica di socialismo evangelico, come lo chiamava Prampolini, nei confronti della Chiesa ufficiale, insomma, della Chiesa, oddio. Che Cesare comunque è fantastico, perché non so perché, però questo olio olio là che è intonato, tra l'altro è una bellissima voce, e a me ha fatto ricordare la mia nonna, che me lo, cioè una volta si sentivano, no? Spesso nelle case questi modi di cantare, queste arie, ma hai fatto Sebben proprio... che siamo donne, paura Sì! non abbiamo. Ma no, ma quelle sono, sì, certo, quelle lì le conosciamo, però era anche una maniera di cantare, non so come dire, poi mia nonna era contadina, probabilmente aveva in testa quelle cose lì, comunque bellissimo perché, boh, insomma, la canzone, quel tipo di canzone forse ci è stata un po' tolta, no, Mattia? Non ce l'abbiamo più nella nostra collettività, abbiamo altre cose che, insomma, probabilmente sarà argomento insieme ai nostri altri ospiti. Senti, Cesare, tra l'altro... Vieni omaggio, vorrei anche ricordare che è un libro che anche te, cioè che hai scritto, è uno dei tuoi libri del 2009 di Interlinea, che ha questo sottotitolo molto bello che si chiama Canto sociale, racconti di magia e ricordi di lotte della prima metà del XX secolo nella bassa Novarese. E tra l'altro vorrei anche ringraziare Mattia perché io non ti conoscevo di persona, però la settimana scorsa, il 25 di aprile, avevo letto di te sul manifesto che ti ha dedicato una bella, anzi due belle pagine sul tuo libro di Bella Ciao, quindi insomma guarda un po' la coincidenza che adesso ti posso conoscere. Allora io passerei, Mattia e Cesare, a parlare col nostro prossimo ospite, che è Davide Caceffo. L'hai presentato prima, è uno dei rappresentanti di un'esperienza bellissima che è quella della Rakatun Band. Rakatun Band che racconta, raccatta, perché è fatto di tanti accattoni, e tu hai pronto una loro canzone molto bella, no, Mattia? Ce Sì, l'ascoltiamo? allora direi di sì, anche perché parla di lavoro. Ve la mando subito e poi parliamo con Davide. Pronto? Ciao, come stai? Tutto bene? Bene, bene, dai. E tu? Sì, abbastanza. Benissimo. E tu come stai? Va bene. Sì? Cosa? No, no, ancora non ho trovato niente. Ancora in giro. Ma sì? Ma davvero quello che dici? Mamma mia, ragazzi, ho trovato un posto di lavoro. Oh, ma che bravo ragazzo! Ho trovato un posto di lavoro per me, bravissimo! Oh, peccato che piove! Poi la direzione. pensato che il mio futuro stesse per arrivare. E mi han dato il foglio di via. Ho provato in Svezia, ma pioveva, Francesca. Ma infatti è bellissima, tra l'altro, questa canzone. E, tra l'altro mi ha fatto un po' impressione perché parla di un'Europa, comunque, di territori che si possono ancora attraversare. Adesso non puoi più andare da nessuna parte. Davide, allora come nasce questa canzone? Anzi, raccontaci un pochino la Rakatun Band, che storia ha? Da dove nasce? Allora, beh, la Rakatun Band nasce circa 7-8 anni fa e siamo un gruppo di gente che ama suonare, principalmente. Ma la nostra particolarità è legata al fatto che siamo volontari e senza fissa dimora. Ecco, il bello di suonare con noi o di venire al nostro concerto è che non capisci mai esattamente chi è l'uno e chi è l'altro, insomma, ecco. Ci teniamo a questo mescolarsi, insomma, ecco. Non è che uno deve essere additato perché è senza dimora o l'altro essere l'operatore per forza, insomma. Siamo gente a cui piace suonare. Questo intanto mi premeva. Che è la cosa più bella, è tra l'altro questa idea di musica come cura, no? Come momento di incontro, ma proprio anche come antidoto ai dolori della vita, a volte alle difficoltà, non solo è molto bella, ma a Radio Cura ci sta anche molto bene. Ascolta, ma invece questa canzone qua di cosa parla? Quando è nata? Sì, allora, all'inizio io e Michele Boso, che penso qualcuno di voi conoscerà, del punto di incontro, saluto. Ci siamo incontrati in realtà perché questa terza persona, questo ragazzo che avete sentito nell'inizio della registrazione, ci ha fatto conoscere. Avevamo praticamente la stessa idea, ma non ci conoscevamo. E per i primi tempi abbiamo cominciato a suonare così, alla buona, con quelli che c'erano e a comporre alcune canzoni. Questa non è stata la prima, perché in realtà è arrivata un po' dopo. Ad un certo punto, chiaramente, l'attività principale... Beh, io lavoro, Michele lavora, e chiaramente tutti gli altri cercano lavoro, sostanzialmente 7-8 anni fa. E finalmente, dopo tanto peregrinare, a questo ragazzo, Abdel, è stato fatto un promesso, un posto di lavoro in Germania. E lui era venuto a raccontarci tutto contento, dicendo che andava via, ma che sarebbe tornato sicuramente ogni 15 giorni, ogni 3 settimane. Noi eravamo un po' dubbiosi che questa cosa fosse fattibile, però abbiamo detto, insomma, perché dobbiamo rovinare il sogno a uno? Magari effettivamente ce la poteva fare, insomma, ecco. E in sostanza è andato, e poi abbiamo perso completamente i contatti. Non riuscivamo a capire cosa gli era successo. Si era finito in qualche giro strano, giro rosco. E il passaparola fra i senza dimora a un certo punto ci ha avvisato che era rientrato a Rovereto, penso al dormitorio. E vabbè, sì, lo proviamo, vediamo, perché con un nome abbastanza comune come Abdel non eravamo neanche sicuri che stessimo parlando tutti della stessa persona. E quando l'abbiamo trovato ci ha raccontato che lui è andato su in Germania, effettivamente. Non ho ben capito la questione di documenti com'è andata, almeno all'epoca, perché io non sono un esperto. Qua da noi dovevi dimostrare di avere dell'esperienza sul campo, sul lavoro, per poter fare poi il lavoro stagionale o meno che ti veniva chiesto. Lassù pare, se tutto è andato come sembra, che fosse il contrario. Infatti nella seconda strofa diciamo appunto che il capo ha portato tutti i documenti per dimostrare che era lì, ma in realtà si è infilato praticamente in un vicolo cieco, perché lui avrebbe avuto più chance se avesse detto che era appena arrivato, sostanzialmente questa è la differenza, o quantomeno questa è come ce l'ha raccontata. E preso dal nervoso, dal fastidio, da quello che era, un po' scherzosamente diciamo alla Forrest Gump, ha preso il primo treno che aveva, non so neanche fin dove il biglietto fosse pagato, da quello che ha detto lui è arrivato fino in Svezia, credo verso Helsinki o qualcosa di quelle parti lì, e poi ha detto, boh, adesso sono calmo, cioè nel senso mi è passata questo fastidio, eccetera, e poi è tornato giù, perché i rapporti, i collegamenti se li aveva, oltre che in Marocco, da cui proveniva, ma soprattutto qui da noi, insomma. Quindi Davide, ci stai facendo un racconto a parte molto divertente, ma anche che ci fa venire in mente tanti degli argomenti che sono all'ordine del giorno, no? Perché ci parli non solo di braccianti, che è uno degli argomenti, quindi di lavoratori agricoli, degli argomenti forti, delle domande forti che in Italia e in Europa ci stiamo facendo. Chiaramente noi abbiamo anche sostenuto una campagna per la regolarizzazione, ma poi la questione del lavoro, il lavoro che non c'è, adesso stiamo di fronte a una crisi. E ti volevo chiedere una cosa insomma un po' più leggera, ma quando vi incontrate gli strumenti, chi è che ce li mette? Ognuno di voi ha uno suo strumento oppure siete riusciti a trovarli? Sì, li abbiamo acquistati con i soldi delle uscite quando pagano, nel senso che dunque non è che tutte le volte pagano, ma insomma chi ha la disponibilità che paga per il nostro concerto, per scelta di tutti i membri, invece che di dividerli, di solito li teniamo e vanno in cassa per fare magari delle feste comuni oppure per acquistare gli strumenti. Il caon, la chitarra, altre volte arrivano delle donazioni perché è il punto, Casa Baldec, sono i posti dove frequentiamo, a noi sono arrivati anche degli amplificatori, delle casse, delle chitarre, io ne ho qui davanti un paio che sono arrivate per via traverse, quindi da musicista penso che se uno deve per qualche motivo attaccare la chitarra al chiodo, piuttosto che tenerla lì su ferma, preferisce darla a un'altra persona che magari la usa più, insomma ecco, io la mia prima chitarra l'ho ricevuta così, quindi penso che uno abbia più piacere di fare in questa maniera, insomma ecco. Quindi musica e lavoro in questa canzone della Rakatun Band, Davide, ci hai parlato un po' della vostra esperienza, io tra l'altro ho avuto l'occasione di venire a 2 o 3 prove, è stato molto bello e divertente e spero di poter rifare questa esperienza. A questo punto però, sulla base anche di questa canzone, io vorrei tirare per la giacchetta il nostro altro ospite, Antonio Fanelli, l'abbiamo ricordato all'inizio, tu sei antropologo culturale, fai parte del comitato scientifico dell'Istituto Ernesto De Martino, sei un ricercatore, hai scritto anche sulla canzone sociale, cosa ti viene in mente? Quale altra canzone o quale riflessione ti viene in mente dopo aver ascoltato questa canzone della Rakatun Band, che si inserisce anche un po', se vogliamo, nella tradizione della canzone così, d'emigrazione, no? Anche ci sono stati degli esempi negli anni 70, Antonio? Sì, no, quello che ci avete fatto ascoltare è molto interessante e ci fa anche vedere come la musica resta una pratica sociale di aggregazione sempre molto forte, nonostante non siamo più produttori, creatori di musica come un tempo, ma siamo fruitori di musiche, questo non ha mai spento del tutto la creatività, anzi, le musiche che ci arrivano dal mercato discografico, le mode, poi si innestano sempre nelle vite, nelle storie dei gruppi che le hanno proprie, le utilizzano, e quindi è interessante vedere anche l'uso politico contemporaneo che si fa della musica. Io credo che sia sempre più interessante raccontare queste storie a volte che non fermarsi soltanto alla narrazione del lavoro, alla narrazione delle lotte fatte da soggetti che non sono direttamente coinvolti. Quindi io apprezzo molto questo tipo di esperienze perché ci fanno capire qualche pezzetto in più di come è cambiata l'Italia e come sono cambiate delle culture popolari, quindi vi ringrazio per avermi fatto scoprire questa orchestra di strada, questa orchestra di persone che cercano lavoro, che cercano un futuro diverso e che si organizzano per farlo. Tra E l'altro, poi appunto il vai. tema della migrazione, sì, No, dicevo, il tema della continua. migrazione, sì, il tema della migrazione, io uno dei brani che ti ho segnalato sono anche molto legato effettivamente a questo canto dei mietitori. Che io ho registrato in Molise perché fa parte di una ricerca che io ho svolto con un amico musicista Giuseppe Moffa in arte Spedino nella mia comunità. Da ragazzino ho fatto questo lavoro. Le persone che ho registrato sono le mie zie, i miei parenti. Per me è stato un percorso importante anche di riscoperta di un passato che molto spesso le persone si vergognavano anche di raccontare, cioè non era patrimonializzato. Pensate che questa storia un po' della migrazione interna per la mietitura è una storia importante nell'Appennino. Molte comunità dell'Appennino vivevano già di migrazioni stagionali. In Toscana dal Pistoiese andavano in Maremma, andavano in Corsica i carbonai o i mietitori, dal Molise andavano a mietere nel tavoliere delle Puglie. E questo canto dei mietitori, appunto, è frutto di questa esperienza di ricerca ed è stato cantato in questa versione da una mia zia che ha 95 anni, che è un po' una sorta di Teresa Viarengo del mio paese. Cioè, io potrei fare due o tre libri su di lei perché mi avrà cantato 200 canzoni e mi avrà raccontato 200 fra barzellette, indovinelli, storielle. Anche tradizioni non cantate, e si chiama Filomena Ciocca, questa mia zia, e mi fa piacere farvi ascoltare questo brano che è contenuto in un libro che si chiama Acque e Ervi in Comune, il paesaggio Sì. sonoro della leggera di Riccia, che è la mia comunità. Il libro è stato realizzato con la casa editrice no Nota di Udine, e Acque e Ervi in Comune, il titolo ve lo traduco, significa acqua e pascolo in comune, ed è una frase proprio di Filomena Ciocca che quando mi deve spiegare che le famiglie contadine, la sua e la mia, che abitavano lì vicino, e quelle altre anche del vicinato, si prestavano mutuo soccorso nell'aiuto nel lavoro. Quindi quando bisognava fare un lavoro dalla famiglia X, tutti gli altri a turno prestavano lavoro gratuito e poi ricevevano la stessa forma di aiuto da parte degli altri. E quindi ho scelto quel titolo per il libro. Tra l'altro, Antonio, adesso facciamo ascoltare subito il pezzo che spero di aver selezionato bene, dicendo anche che l'esperienza delle terre, del lavoro in comune è anche un'esperienza alpina, qui in Trentino, ne sappiamo Sì. qualcosa, no? La proprietà comunitaria di alcune zone, della montagna. Ma senza porre tempo fra mezzo, io farei ascoltare questo brano, spero sia quello giusto. Allora, ecco qui. Prego. È felice. Vada qua, vada là, va là, va là, Allora. te ne va, l'uomo della montagna dicendo tu che non stava là, l'uomo della marina dicendo tu che non ti pulite, andiamo a canale che a campanella e a padrone che a mia scala, vada qua, vada là, va là, va là, te ne va, andiamo a canale che a campanella e a padrone che a mia scala, abbatte per tutti che dici mangi frutta, abbatte per me che dici mangi spesa, l'uomo della montagna dicendo tu che non stava là, l'uomo della marina dicendo tu che non ti Allora Antonio, Mattia, forse non era questo? Che questo cos'era però è questo? altrettanto bello e significativo, questo è un canto della trebbiatura, quindi quando il lavoro della trebbiatura avveniva con dei buoi che trascinavano dei grandi sassi che separavano quindi il grano dalle altre cose che andavano quindi distinte, e poi appunto veniva fatto, era appunto col vento che veniva separata la pula dal grano. Durante la trebbiatura, per incitare il lavoro dei buoi, per dare un ritmo, c'era questo canto. Quindi qui siamo in un canto che non racconta il lavoro, ma è un canto che ha una funzione ritmica all'interno del lavoro stesso. E questo signore che avete ascoltato si chiamava Michele Ciocca ed era un contadino di una contrada che si chiama Contrada Loie, che è la contrada da cui viene la famiglia del mio amico musicista Spedino Moffa. Questo quindi è un canto in funzione del lavoro, mentre il canto dei mietitori è un canto che presenta alcune strofe che venivano cantate dai mietitori stessi durante qualche pausa, qualche momento di pausa nel lavoro della mietitura, ma era cantato un po' anche in tutte le zone dove questi mietitori poi tornavano, perché contiene anche strofe di altro tipo, strofe legate anche alle mogli. Questo particolare nei paesi di montagna del Molise, i commercianti, le mescite di vino, le cantine, avevano questo libro nero con i debiti e i contadini poveri pagavano dopo il ritorno dalla mietitura. Questo era, quindi si facevano fare credito durante appunto la stagione in cui non avevano altre fonti di reddito ed erano in grado di pagare soltanto al ritorno da 2 o 3 mesi che trascorrevano fra il Basso Molise e il Tavoliere delle Puglie. Questa Ecco. migrazione è durata fino ai primi anni 50. Ecco, Antonio, io l'ho recuperato l'audio che ci volevi Sì. presentare. Eccolo qua. Arrivata il mese di giugno traditora, etzene iudi il mio marito a meda. Etzene iude il mio marito a Puglia, etzene iude Ruscia cumanu mila, etzene mano da comano cana lenda. E mugliere malo frisca ialu sola, e mugliere malo frisca ialu sola, e vedema chi guadagna più moneta. Ecco qua, direi che è Sì, finita, grazie. giusto, Che Antonio? meraviglia! Abbiamo recuperato la zia Filomena, allora, Antonio, mi Sì, sembrava poi di questa capire. donna, io già dovrei fare un documentario, un libro su di lei, perché insomma è una figura di una forza, di un'energia. Lei mi ha anche insegnato un po' questo, osservando la sua vita, che nel mondo contadino poi, al di là di una rappresentazione come un mondo così patriarcale, nella rappresentazione ufficiale erano tutti mondi patriarcali, ma in realtà poi le famiglie contadine si basavano molto su un aspetto pragmatico, sui rapporti di forza. Quindi nelle coppie, nelle famiglie dove le donne avevano maggiori capacità, comandavano loro. E questa donna comandava lei ovunque andasse. E questo è anche una persona che mi sta molto a cuore. E tra l'altro, insomma, ci fa anche molto piacere che ricordi donne forti, visto che appunto abbiamo anche ricordato questo 1º maggio che deve essere femminista. E tra l'altro hai anche raccontato una cosa che a me sta molto a cuore, anche a Mattia chiaramente, però la questione dell'acqua in comune, insomma, che è una delle nostre battaglie. E senti, io invece volevo chiedere a Michele, visto che si parlava comunque di migrazione, di migranti, è una tradizione che ha attraversato anche il Trentino. E tu, Michele, ci puoi raccontare qualcosa del canto sociale anche in Trentino, giusto? Sì, certo. Appunto a partire da qualche anno ho lavorato soprattutto all'interno delle carte di pulizia e della documentazione giudiziaria, in particolar modo negli anni 20 e 30 del Novecento. Il mio punto di vista, la mia domanda, al quale appunto sono partito per intraprendere questa ricerca, era proprio provare a rispondere a una domanda che può sembrare anche banale, cioè quali sono le forme, ecco, diciamo così, di opposizione al regime fascista. E quindi ho provato ad entrare all'interno di queste carte di polizia, i processi, quindi i verbali d'arresto, le deposizioni dei testimoni, eccetera, eccetera. tra tantissimi processi che ho incontrato, legati anche a queste forme, di protesta, spiccano per intensità, per qualità anche e per numero, sicuramente i processi e gli arresti legati proprio al canto di canzoni sediziose, come venivano chiamate al tempo. E prima, appunto, Mattia, nell'introdurre appunto questa puntata, metteva in luce il rapporto tra il 1º maggio e la canzone. Si è sempre cantato, ecco, durante il 1º maggio. Beh, per quanto riguarda il Trentino, sì, ecco, troviamo numerosi arresti legati appunto per aver cantato delle canzoni sovversive. Ecco, la colonna sonora, la hit, ecco, diciamo, del tempo, soprattutto per i primi anni 20, è proprio un canto che finora non abbiamo nominato, famosissimo, quello appunto di Bandiera Rossa. Ecco, l'abbiamo trovata tantissimo, l'ho trovata tantissimo appunto, e collegata sempre anche ad altri episodi, ecco, perché non dobbiamo mai dimenticare che il canto è sempre anche collegato a una dimensione anche della socialità, dello stare assieme. E quindi, analizzando, ecco, un po' più in profondità questi processi, emerge anche il ruolo fondamentale delle osterie, ecco. E quindi ci si trovava alla sera, durante il 1º maggio, avevo incontrato appunto questi arresti a Meano, ad esempio nel 1922, perché alcuni lavoratori, ecco, si erano trovati alla sera nelle cantine del paese e, naturalmente, alzando un attimino il gomito, ecco, e iniziarono subito a cantare e cantarono queste canzoni. Si può citare anche, ad esempio, l'Inno dei lavoratori, che era stato cantato anche in queste circostanze. Quindi sì, il rapporto anche in Trentino, ecco, diciamo così, ha una tradizione, ecco, di canto sociale, naturalmente meno intensa, ecco, possiamo dire così, rispetto ad altre regioni d'Italia, penso alla pianura padana, soprattutto anche per quanto riguarda anche gli anni 20 e 30. Interessante appunto, perché emerge uno spaccato, ecco, di un Trentino differenti che conosciamo anche, che conosciamo poco. Ad esempio, ho incontrato anche altre canzoni. Anche in Trentino era diffusissima, ad esempio, anche i canti anarchici o anarchicizzanti, come ad esempio Dio Lugano Bella, il famoso ritornello, l'ho ritrovato molto bello, di Dinamita ai palazzi e dalle chiese, pugnagniamo l'odiato borghese, ad esempio. Oppure anche quest'altro ritornello, ecco, molto molto importante, che l'ho trovato spesso: discendete, vigliacchi, dal trono, Cesare deponete le vostre corone, noi vogliamo. vuole cantarcelo, secondo Ah, me. grazie, ecco, perché non mi sono fidato, ecco. Marsigliese. Esatto. Ma senti, Michele, tra l'altro tu nel tuo lavoro d'archivio sei anche andato più indietro, no? Per quanto riguarda la tua ricerca sulle canzoni, e mi raccontavi un aneddoto veramente così, diremmo noi buffo adesso, ma probabilmente non lo è stato per i protagonisti, che ha a che fare con la seconda metà dell'Ottocento e di una ragazzina che ingenuamente, così denuncia tutta la famiglia per aver cantato un canto garibaldino. Sì, esatto. Infatti, un po' lo stesso, ho utilizzato questa metodologia anche provando ad andare un po' più indietro, quindi ad analizzare queste carte di polizia all'interno del periodo del 1848 più o meno agli anni 70. E anche lì emerge appunto l'importanza del canto, canto risorgimentale in questo caso, ed in particolar modo il canto dedicato all'eroe dei due mondi, ecco, all'eroe del tempo, al Che Guevara, possiamo dire, ecco, dell'Ottocento, Giuseppe Garibaldi. Diffusissima anche in Trentina era l'Inno della Camicia Rossa, davvero l'ho trovato moltissime volte, l'ho trovato anche proprio come forma di propaganda, nel senso che questo, anche il canto, questa è anche una grande particolarità del canto sociale, che poteva venire scritto sui manifesti e poi buttato per terra o affisso anche sui muri delle strade. Infatti, una copia dell'Inno della Camicia Rossa l'ho ritrovata nelle carte di polizia, proprio perché era stato buttato per terra proprio come un volantino nel 1868 per le vie di Trento. Ma l'episodio che facevi riferimento È davvero molto curioso perché siamo il 5 dicembre, ecco, del 1866. Un gendarme entra in una bottega di Cagliano, quindi a metà strada, un paesino a metà strada tra Trento e Rovereto. Entra in questa bottega e praticamente e sorprende due giovani, due commessi, un ragazzo e una ragazza, che erano intenti a leggere un foglio di carta. Lui però, il gendarme, non intende bene l'italiano, ma riesce a captare solamente la parola Garibaldi. Quindi acquista, fa i suoi acquisti, va in caserma, fa la denuncia e il giorno dopo chiamano appunto questa commessa, Anita si chiamava. Peraltro, sì. esatto, a deporre, ecco, gli chiede: ma come mai? Perché stava dicendo la parola Garibaldi? Questa commessa era molto molto giovane, aveva 16 anni, ecco, e allora in maniera anche un po' forse ingenua dice: beh, facendo ricopiare al mio amico, quindi a trascrivere, stavo dettando, ecco, la canzone La camicia rossa di Garibaldi. Ma come? Eh sì, è una canzone che so a memoria, che conosco tutta la mia famiglia, ma come mai il commissario gli fa? È perché una volta a settimana i miei genitori si trovano con altri artigiani, operai, contadini del posto e cantano delle canzoni popolari, e tra le quali anche La camicia rossa, ma poi cantiamo anche il Credo di Garibaldi. Ok? E praticamente chi è che partecipa a queste canzoni? E in maniera involontaria fa una sorta di spiata generale, citando tutti quelli che cantavano. Ma la cosa più interessante è anche che dice: ma e come mai avete queste canzoni? Beh, è logico, le porta il fabbro di Cagliano, e una volta al mese va a Padova per lavoro. E quindi davvero capiamo com'è il canto. Siamo nel 1866, non c'era internet, non c'erano i CD, non c'erano i vinili, non c'era Spotify. Davvero aveva la grande capacità di muoversi tra i territori, muoversi a macchia d'olio, penetrava fin dentro anche nelle vallate, ad esempio, trentine. E proprio perché il canto è un po' a metà strada, ecco, diciamo così, tra lo scritto e l'oralità, ecco, quindi aveva anche una capacità davvero di diffusione davvero molto molto ampia. Certo, di diffusione anche di messaggi che magari Naturalmente. nelle classi contadine non sarebbero arrivate in altra maniera. Senti, Cesare, te hai citato Che Guevara, quindi mi dai l'assist involontariamente per questo piccolo e strano omaggio che facciamo partire, cioè un bella ciao in quechua che ci arriva direttamente dalla Colombia. Che bello. Una punja catariscanci, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, una punja catariscanci, già chi causa e ricuspa. Una cunaca, già chi già giù. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, mai camangina, cinci già giù, guagnuita tariringa cia, guagnuita rispa, ama wakangi. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, c'hai pacca scingi, c'hai una canghi, na tunga sani cuspa. Cai maricanci, luna cunaca. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, cai maricanci, luna cunaca. Cimi, ai mari canci, luna cunaca, guagnuita na mangiancimi. Ecco, Cesare, questo era dedicato a te. Grazie. una versione così estremamente originale che però ci ha fatto moltissimo piacere. Ringraziamo la nostra amica Catalina, che è un'antropologa che ce l'ha fatta arrivare appunto da Bogotà, dalla Colombia. Dopo, insomma, li saluteremo meglio. Però appunto questa bella ciao che ha attraversato il mondo, no? L'abbiamo sentita in tantissime versioni e è arrivato perfino in questa popolazione resistente e combattente che sono i Quechua, che ricordiamo essere nella zona andina dell'America Latina, e che ringraziamo e salutiamo e speriamo che stiano attraversando questo momento difficile nella maniera migliore. Allora, Mattia, siamo Beh, direi che ritornati di nuovo a Bella Ciao. sì, direi che a questo punto con Cesare che ha dedicato a Bella Ciao un libro pubblicato da pochissimo, vabbè, a questo punto voglio dire Bella Ciao Cesare è proprio l'esempio di una canzone così popolare, politica, nata nella Resistenza, anche se all'inizio si credeva che avesse un'altra origine. Che però diventa straordinariamente conosciuta, che gira il mondo, che arriva tra i Quechua, che arriva in una delle serie TV più guardate nella storia di Netflix. Com'è successo? Qual è stata la strada compiuta da questa canzone per arrivare fino a lì? Senti, vorrei ricordare Vai! che in Italia ci sono tre canzoni che sono state popolarissime. Bella Ciao, prima l'Internazionale e prima ancora Bandiera Rossa. Bandiera Rossa, come sai, era un canto repubblicano. Non solo, ma è stato anche un canto garibaldino. Io ho registrato, per esempio, questo lo dedico a Tosh. Questa strofa che dice: "Culla sciabatta dal pio nono, giù dal trono, voi in vita, e viva Roma e la libertà, e viva Roma e la libertà". Quindi è una canzone antichissima, e anche questa popolare perché era legata a Venchi Nenetta sotto l'ombrellino da un lato e dall'altro lato a Ciaponsa spicca la porta, o brutta porca, vengo de bas. Questa è l'origine di Bandiera Rossa. No, per quel che riguarda Bella Ciao, c'è da dire che tu dici non era. In realtà era già una canzone contadina, cioè per esempio quelli della Brigata Maiella che sono stati tra i primi a cantare una Bella Ciao partigiana, forse, anzi forse sono stati i primi, però non è l'unica Bella Ciao partigiana, avevano imparato Fior di Tomba dalle Mondariso che andavano a lavorare in Piemonte. Certo. Quindi questo è un po' il giro per cui diventa poi la canzone, una delle canzoni che cantavano quelli della Maiella che sono venuti su verso Bologna. Poi però la cantavano anche quelli che come la divisione Cremona, gli altri che sono venuti su dall'altra parte, no? Dell'Italia. E poi questa canzone trova un'altra versione, che è forse la versione che poi più vicina a quella diventata popolarissima, a Montefiorino. Cioè c'è un partigiano che a un certo momento l'arrangia per sempre Fior di Tomba per i partigiani di Montefiorino. E poi arriva invece più tardi in Piemonte, direi verso qui è il punto, perché forse c'era già prima, però sicuramente in ottobre, durante i 23 giorni della Repubblica di Alba, i partigiani di Mauri, quelli cioè che Olio cantavano un'altra Bella Ciao. Quest'altra Bella Ciao è una Bella Ciao, tra l'altro ce n'è una versione, non so se è l'unica che cantassero, però è una versione molto femminile, nel senso che è legata non al partigiano, ma proprio alla ragazza. Però non riesco E a beh, però leggere. già Cesare ci hai fatto un bel, come dire, ci hai dipinto già una. Che ci dà anche Ecco, l'idea di una complessità. a quel punto lì cosa succede? Che nel 45 partono i festival della gioventù, nel senso che c'è una grande riunione a Londra e mi pare che fossero 63 associazioni giovanili di sinistra, decidono di fare ogni 2-4 anni un meeting tutti assieme in una capitale europea. E per esempio nel 47 a Praga i 1.000 delegati italiani, 1.000, cantano Bella Ciao battendo le mani e la canzone ha un grande successo, va in mano a tantissimi altri delegati, perché c'erano, mi pare, presenti 72, 73 delegazioni di paesi del mondo e comincia a essere tradotta in varie lingue. Senti Cesare, con questa immagine incredibile di questi 1.000 delegati che cantano Bella Ciao, che battono le mani tutte assieme, purtroppo dobbiamo cominciare ad avvicinarci alla fine della nostra puntata, che è stata molto bella, molto calda. Ci spiace moltissimo purtroppo dover tagliare i vostri contributi, soprattutto tagliare Cesare, che veramente staremo ad ascoltare per molto molto più tempo, però. Hai ricordato anche la dimensione femminile. Prima abbiamo parlato un po' di America Latina. Allora, ci piace finire questa puntata ringraziando tutti i nostri ospiti, quindi Antonio, Mattia, Cesare, Davide, insomma, tutti quelli che ci hanno E accompagnato, Michele. e Michele, scusa, tutti quelli che ci hanno accompagnato in questo omaggio così caldo, così musicale, anche nella storia, insomma, delle nostre radici. E andando da un'altra parte del mondo, allora io ringrazio tutti quelli che sono stati con noi. E ci Grazie. Ciao a tutti, grazie ancora. Grazie Mi avete molto divertito. a tutti. Grazie. Ah, che Anche bel te, Cesare, complimento. sei fantastico, veramente. Speriamo di averti ancora insieme a noi, veramente. In questa radio resistente, anarchica, dai, che anche noi proviamo nel nostro piccolo a fare qualcosa. Senti, Mattia, e allora finiamo questa puntata appunto cercando di andare oltre i nostri confini. Radio Cura, dal suo cortile virtuale, cerca di andare oltre i confini del mondo e andiamo in America Latina. C'è una nostra amica, l'abbiamo citata prima, Catalina, che ci ha mandato un saluto e anche un pezzo di canzone di un gruppo musicale di Bogotà, di amici nostri di Bogotà. Salutiamo i Todos Copas che fanno rap e che ci è sembrata una bella maniera per finire una puntata che parlava di musica di resistenza, di musica di lotta, perché forse il rap è una delle canzoni di lotta e di resistenza più forte, più diffuse in tutto il mondo. Mattia. Sì, quindi Francesca mando il messaggio audio, quello che mi hai Sentiamo spedito via Catalina che WhatsApp. ci saluta e E poi poi il torniamo con brano. Todos Perfetto. Copas, Ecco certo. qua. No, non è questo, scusami. C'è stato un problema È tecnico. sempre C'è il sta... Filomena, è sempre. è sempre quello. Aspetta, eccolo. La zia. Vai. Hola, Francesca. Pues ahorita me está haciendo caer en cuenta, Cris, que nos hagas un favor. Promociona a Todos Copas. Ellos están ahorita, se quedaron sin concierto, todos los músicos están bastante mal. No, non ci siamo, Francesca, non è neanche questo. Allora lo facciamo noi. Salutiamo Catalina e partiamo con questo brano di Todos Copas per finire questa puntata e noi ci sentiamo la prossima volta che vediamo quando sarà. Lo saprete dalla nostra pagina Facebook di Radio Cura Trento. E speriamo che sia questo il brano giusto. Ciao Francesca, ciao a tutti. Mattia, buon Ciao primo Paolo. maggio. Buon 1º maggio. En todas partes, opté por ser yo mismo, mi cuento punto y aparte. Un mundo diferente, no lo quiero hacer igual. Historias repetidas, un círculo sin final. Aprendiendo de las cosas que la vida me enseñó. Elegí por ser poeta y combinarlo con buen flow. Historias del asfalto, relatos callejeros, sonidos contundentes de un micrófono guerrero. Con esto en la sangre lo hago mi profesión. Compañía musical, incitar a rebelión. Hago una protesta entre notas musicales con bases fundamentadas, rompiendo esquemas normales y mensajes sin anestesia, sin mediar palabra alguna. Vencí con la potencia del humo bajo la luna, con los zapatos gastados, caminando, caminando, bajando por la loma, smoking carburando, tocando varios temas en cuestión de unos minutos, de los días de alegría, hasta las noches de luto, calentura en las esquinas que guardan el secreto. Amor, dolor, violencia, los burbujos del concreto. Mujeres traicioneras, tropeles por la plata, sacerdotes depravados, disque pecares. Ni empatan, dejémonos de vainas sin rodeos al asunto. El rap desde Pachone para Bogotá y el mundo. Para Bogotá y el mundo. Rap serio.